di Dario Ricci. Beijing, you are host to the present and the gateway to the future. Thank you. Grazie mille. I now have the honor of asking the President of the People's Republic of China to open the games of the 29th Olympiad of the modern era. 我宣布北京第29届奥林匹克运动会开幕。 Pechino 2008, le Olimpiadi della grandezza cinese. Ci muoveremo oggi qui a Olimpia intorno a quello stadio immaginifico, il Nido, così chiamato per la sua forma e forse anche per l'atmosfera rovente in tutti i sensi che vi si respirò in quei giorni di agosto di 12 anni fa. In questi giorni invece così difficili per il mondo e quindi anche per lo sport, vogliamo dialogare con due campioni diversi per disciplina e palmarès, accomunati però proprio da quell'Olimpiade davvero speciale per entrambi. Ed entrambi ci aiuteranno a scoprire a loro modo il vero significato di quel braciere olimpico e degli ideali che, pur tra tanti interessi spesso discordanti, lo alimentano. A Pechino 2008 seppe arrivare fino alla semifinale dei 3.000 siepi, coronamento di una carriera che ha anche in due titoli italiani assoluti sulla stessa distanza altre due gemme. A pochi mesi da quelle Olimpiadi poi si è laureato a pieni voti in medicina e oggi, come anestesista rianimatore presso l'ospedale di Piacenza, è in prima linea nella battaglia al coronavirus. Matteo Villani, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie. Matteo, ti chiedo subito qual è ora la situazione in corsia a Piacenza, che è stato uno dei punti più caldi della pandemia in Italia. Allora, rispetto a quello che è iniziato circa intorno al 20 di febbraio, siamo riusciti a ottenere, un po' per merito nostro e un po' con grande merito della popolazione, una situazione, soprattutto in questi ultimi 2-3 giorni, si è visto a Piacenza, sto parlando di Piacenza, di equilibrio, maggiore equilibrio. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli accessi in pronto soccorso, il numero dei pazienti in pronto soccorso sta via via, non è così alto come era nelle settimane scorse, fortunatamente, e il nostro lavoro è molto meno frenetico perché abbiamo più tempo per prenderci cura e curare le persone che arrivano. Questo sicuramente è un grande merito della popolazione, dei cittadini che sono rimasti a casa e che ci hanno dato tempo e ci continuano a dare tempo per fare il nostro lavoro. E l'altra cosa, l'ospedale ha fatto uno sforzo enorme. L'ospedale è riuscito a organizzarsi, facendo fronte a un continuo arrivo di pazienti, organizzarsi per far fronte a tutte le richieste. Terribile, immagino, quelle giornate di fine febbraio. Raccontaci, per farci capire cosa è accaduto davvero. Come rianimazione, come ospedale, tutto, come qualsiasi tipo di lavoro, siamo abituati a una quotidianità, no? Una marea, una mareggiata alla mattina e al pomeriggio, a cui noi eravamo più o meno abituati. Il 20 è invece arrivato uno tsunami in cui non eravamo nessuno si aspettava in quel momento lì, nessuno si aspettava che iniziasse da noi. I primi giorni sono stati giorni di paura, per noi, perché noi avevamo paura di qualcosa che non conoscevamo, paura per i nostri pazienti, perché noi tuttora non abbiamo una terapia provata contro questo coronavirus, e poi paura per i nostri cari. E quindi noi che eravamo e siamo tuttora di fronte a questa patologia che non conosciamo, ma che stiamo iniziando a conoscere adesso, potevamo contrarre noi il coronavirus e portarlo a casa dei nostri cari. Quindi è una triplice paura quello che, a cui ci siamo comunque abituati in queste settimane qua. La prima settimana è stata spaventosa perché non avevamo mai visto un'affluenza di tanti pazienti sani, tutti in una volta in ospedale con la stessa patologia. Tutti con la stessa patologia, tutti con una fame d'aria, tutti con la necessità di ossigeno, tutti con la febbre, tutti uguali erano. In prima fila, dicevamo, contro il virus, quindi una battaglia che state facendo voi, personale medico, a prezzo di sacrifici enormi sotto il profilo del rischio e degli affetti. Io ho la possibilità di isolarmi perché all'inizio, quando tutto è iniziato, al primo tampone positivo, quando non c'erano ancora tutte queste restrizioni, sono riuscito a isolarmi in casa e la mia famiglia, quindi i miei 3 figli e mia moglie, da un'altra parte. Alcune persone, alcuni miei colleghi non hanno avuto questa possibilità qua perché semplicemente non hanno i suoceri, non hanno un'altra casa in collina, non hanno niente dove andare, non hanno un posto dove andare e vivono tuttora in casa, quindi tornano a casa dopo il lavoro, vivono in una stanza con un bagno, si fanno preparare da mangiare che gli viene dato fuori dalla porta senza avere contatti con i figli, senza avere contatti con i propri cari, un isolamento che è un isolamento in casa forzato, che però non ti nascondo che comunque la paura c'è comunque perché tu tocchi la maniglia della porta, tu tocchi l'acqua, tu togli le maniglie del garage, quindi io ho avuto questa fortuna e questa prontezza. Sono 30 giorni che non vedo la mia famiglia, non so quando finirà, perché non so quando finirà, però lo faccio anche per loro questo, eh. Lo facciamo tutti anche per loro, lo facciamo per le nostre famiglie. Io sto lavorando anche per loro, non soltanto per i cittadini o i malati. Ci sono dei momenti chiavi, Matteo, degli episodi, cui ripensi in questi giorni difficili? Sono due episodi. Il primo, che è stato uno dei primi ragazzi di 43 anni che era capitato all'inizio, che prima di essere attaccato al ventilatore, lui non è mai stato intubato, lui è stato messo in una ventilazione non invasiva, i cosiddetti caschi, che adesso di cui si sente parlare, cioè è entrato nella nostra rianimazione scorato, profondamente scorato dopo 3-4 giorni di terapia in ospedale. E prima di mettergli il casco, lui ci disse a tutto lo staff della rianimazione che era in quel momento sta lavorando con lui: io mi fido di voi, lo so che mi volete bene, mi porterete fuori di qua. Dopo 3 giorni abbiamo tolto il casco e lui adesso è a casa. Quindi questa è stata forse una delle prime, dei primi che abbiamo visto e uno dei più grandi successi che abbiamo ottenuto all'inizio, che ci ha dato un grande coraggio. La seconda cosa, il primo paziente che ho estubato circa 10 giorni fa, abbiamo estubato, quindi tolto dal coma farmacologico, tolto dal sostegno ventilatorio, tolto il tubo, inizia a piangere e dicendo non vedendo, perché non vedono questi pazienti qua. Perché la terapia antivirale che stiamo facendo è una terapia antivirale che può dare come effetto collaterale cecità transitoria. Una volta stoppi la terapia antivirale, i miei pazienti tornano a vedere. Tolto il tubo, non ci vedeva, fa: ma cosa, dove sono, in paradiso? No, non sei in paradiso, sei ancora qui con noi. Poi dopo ho cominciato a vedere e ci ha ringraziato. E lo sport, ecco Matteo, che posto ha ora nella tua vita e che spinta, che insegnamento ti ha dato, ti sta dando? Allora, lo sport innanzitutto, come l'ho fatto io, perché il mio è stato uno sport, non è stato un gioco, non è un gioco del calcio a pallavolo, il mio è stato uno sport a dedica leggera, che si pensa sia uno sport singolo, no? Alla fine sei tu che fai la prestazione, tu corri contro gli altri. Invece c'è dietro alla gara, c'è tutta la preparazione, e la preparazione viene fatta da uno staff. Quello che mi ha aiutato, in questo momento, è stato sì, essere consapevole dei miei limiti, delle mie capacità, perché è così che lavora il professionista, così che lavora lo sportivo. Tutti i giorni deve essere consapevole dei propri limiti, della propria situazione e andare oltre, cercare di andare oltre, darsi degli obiettivi e andare oltre i limiti. Lo stesso in ospedale. In ospedale, tu non sei solo perché tu non stai, lavorando da solo, soprattutto in rianimazione. Ti rendi conto di avere delle altre persone che remano con te. E il bello è saperlo fare insieme, sapere dove si è, che cosa bisogna fare, quali sono i limiti, limiti che possono essere limiti di presidi, limiti umani, cercare di superarli. Lo sport in questo modo è stato molto allenante per me perché mi ha insegnato a cercare aiuto, a convincermi che non sono da solo e essere consapevole di dove devo arrivare e cosa fare per arrivarci. Lo sport non molla mai, eh. Lo sportivo, il professionista non molla mai, cioè piuttosto corre con il dolore, ma piuttosto lo fa e lo stesso dobbiamo farlo noi. Io una volta correvo per me stesso, per essere più forte, per correre più forte e per battere gli altri. Adesso io invece sono in corsia, lavoro per gli altri, miglioro me stesso per gli altri. Se ripensi invece a quei giorni di Pechino 2008, che immagine ti torna subito in mente? La cosa più bella è quando si entra nello stadio prima della gara e davanti a 90.000 persone vedi la fiaccola olimpica e cinque cerchi e ti rendi conto che tu hai lavorato 10 anni per quello. Cioè, hai lavorato 10 anni della tua vita, e poi io ero anche giovane, io avevo 25 anni, quindi da quando avevo iniziato a fare quello sport, il mio sogno era quello. Comunque fosse andata, qualunque cosa fosse successa, l'obiettivo per me era un obiettivo raggiunto, che poi tutto quello che sarebbe venuto sarebbe stato qualcosa in più. Però la fiaccola olimpica, i cinque cerchi all'interno del nido, quindi dello stadio olimpico, è stato il coronamento di un lavoro, di una carriera e di fatiche che sono durate 10 anni. Olimpiadi di Tokyo invece rinviate al prossimo anno. Ecco, giusto così? Secondo me hanno fatto la cosa sensata, perché pensare di organizzare un'Olimpiade in questo momento in Giappone, su un'isola che si sarebbe vista arrivare milioni di persone da tutto il mondo, Covid, punto di domanda, cioè sarebbe stato utopico pensare di poter controllare in questo momento, durante l'Olimpiade, un'infezione, quindi è stata una cosa ragionevole e sensata. Sicuramente l'anno prossimo dovrà sicuramente essere un punto di partenza, sicuramente sarà una nuova rinascita dello sport, sicuramente, perché noi siamo più forti del virus, noi dobbiamo essere più forti del virus, noi uniti siamo più forti del virus, e una delle cose più belle che uniscono l'Olimpiade è l'Olimpiade, no? L'Olimpiade è nata in Grecia, e quando c'erano l'Olimpiade si stoppavano tutte le guerre, si stoppava qualsiasi cosa, si faceva l'Olimpiade. E lo stesso deve essere l'anno prossimo. L'anno prossimo sarà l'Olimpiade zero dopo il coronavirus. Cioè tutto ciò che ci ha disunito tutti, i modi di pensiero, il modo di affrontare questo virus, il modo di fare la terapia, il modo di minimizzare o non minimizzare gli stati, così, dovrà essere azzerato e dovrà essere segnato come T0, quindi tempo zero, che unisce tutti gli stati nello sport. Matteo Villani, grazie per tutto quello che state facendo, tu e i tuoi colleghi di tutta Italia, e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Io vi ringrazio tutti quanti per il vostro lavoro, perché anche voi siete in trincea. Quindi andiamo avanti così tutti quanti. Ora una piccola pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Olimpia. Io faccio scherma per passione. Amo tantissimo questo sport, mi ha regalato tantissimo. E se oggi sono qui è grazie a tutti i sacrifici che ho fatto, alla mia famiglia. Questa è una vittoria di squadra. Sul podio ci sono io, ma ci sono tutte queste persone. Credo che Dio mi abbia dato un grandissimo talento. Il talento è una sorta di vocazione. Io ho cercato di dare un senso a tutto questo e sono riuscita a fare veramente qualcosa che non avrei mai immaginato. A Pechino 2008 conquistò forse l'oro più bello della sua leggendaria carriera, il terzo olimpico consecutivo nel fioretto individuale femminile come nessun'altra campionessa nella storia della scherma. Proprio in quegli stessi giorni in cui Matteo Villani, il nostro primo ospite, coronava sulla pista dello Stadio del Nido il sogno di una carriera partecipando alla semifinale olimpica dei 3.000 siepi. Campioni diversi, ma che ci stanno illuminando oggi sul vero significato del sacro fuoco di Olimpia. E allora ben ritrovata oggi qui a Olimpia, la città dello sport, a Valentina Vezzali. Grazie, un saluto a tutti. Valentina, allora, Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021, la decisione più giusta anche secondo te, immagino. Io ritengo che la decisione di spostare le Olimpiadi sia stata una decisione molto saggia. Le Olimpiadi è una grandissima festa dove gli atleti combattono con lealtà e correttezza per aggiudicarsi il titolo di campione olimpico, lo fanno davanti ad una folla di persone che si emozionano davanti alle loro gesta, che poi rimarranno scritte nel libro dell'Olimpo, e quindi in un momento del genere credo che sia giusto innanzitutto unirsi tutti insieme per combattere un nemico che ancora non conosciamo bene. E una volta che avremo combattuto questo nemico e allora potremo festeggiare e potremo disputare questa bellissima Olimpiade. Rinviati i giochi di Tokyo e ricollocati sempre in estate, dal 23 luglio all'8 agosto. Anche in questo caso scelta quasi obbligata. Ma sicuramente è stata una decisione non semplice, anche perché il prossimo anno ci saranno tantissime manifestazioni di svariati sport importanti, però sono riusciti a trovare la giusta combinazione e questo mi rende felice, perché significa che a vincere è stato lo sport e che comunque sia l'Olimpiade rappresenta il punto centrale della stagione del prossimo anno e tutti si sono uniformati per questo obiettivo, che è, ripeto, il massimo sogno di ogni atleta. Slittamento di un anno che per alcuni grandi campioni, penso a Federica Pellegrini o nella scherma Elisa Di Francesca e Aldo Montano, vuol dire dover faticare ancora un anno dopo carriere lunghe ed estenuanti. Ce la faranno fisicamente e mentalmente, Valentina? Ma io direi che un anno in più, considerando che parliamo di giochi olimpici e considerando l'obiettivo e il traguardo che può valere per gli atleti che sono arrivati quasi a fine carriera, non sia poi così pesante. Se io mi trovassi al loro posto, pur di disputarla, non sentirei questo anno in più, anche perché il bagaglio tecnico che hanno una Pellegrino, una Di Francesco, un Montano, un Cassarà, sicuramente è importante, e io credo che per arrivare a disputare un'Olimpiade quello che è fondamentale è la motivazione. Ricordiamo che ci sono stati dei giochi olimpici che non si sono disputati durante le guerre mondiali e quindi gli atleti non hanno potuto disputarle. Noi parliamo di spostarle di un anno, si tratta di capire, ecco, i criteri di qualificazione, si tratta di capire come gli atleti dovranno rimodulare i loro impegni, i loro programmi, questo sì, però alla fine io credo che il sogno olimpico ne valga la pena. Del resto poi stava diventando impossibile preparare i giochi allenandosi in casa a causa coronavirus. Ma al prepararsi un'Olimpiade allenandosi in casa è alquanto improbabile, anche perché credo che ogni disciplina debba comunque richiamare il gesto tecnico. Nella scherma è fondamentale l'incontro con il proprio avversario e la lezione tecnica con il proprio maestro, ma credo che questo valga un po' in tutti gli altri sport, e quindi prepararsi da casa non sarebbe secondo me giovato per arrivare a disputare una Olimpiade. E quindi sicuramente gli atleti, e io parlo anche in questo caso come dirigente federale, verranno messi nelle migliori condizioni con commissario tecnico, preparatori e tecnici per poter rimodulare tutta la loro programmazione ed arrivare il prossimo anno nel migliore dei modi. Per alcune campionesse, penso ancora a Pellegrini e Di Francesca, il progetto olimpico si intreccia e sovrappone anche con un altro piano, ancora più importante, cioè la maternità. Tu che ti sei trovata di fronte a questo dilemma, sciogliendolo in modo straordinario e vincente, ti senti di poter dare ora un suggerimento? Ma io credo che ognuno di noi dentro sé sa quello che è più importante e dobbiamo seguire il nostro cuore, dobbiamo seguire la fiamma che arde dentro e che ci dice quello che è prioritario per noi, e sicuramente non dobbiamo forzare le cose, questo sì, e questo possiamo saperlo solo noi stessi. Quindi io credo che ogni atleta farà la scelta giusta. Ieri sera ho sentito in collegamento telefonico Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Rio, purtroppo si è fatto male e non è riuscito a disputarle, ora si vede rimandare di un anno l'Olimpiade, ma io credo che l'attesa ne valga la pena e soprattutto il valore di questi atleti che comunque sia sacrificano tanto della loro vita privata, alla fine verrà ripagato. A proposito di ideali olimpici, so che sei coinvolta in un progetto con atleti davvero speciali. Devo dire che noi atleti siamo anche attenti al sociale e in questo periodo, oltre agli atleti che si stanno allenando a casa, io penso anche agli oltre 3.000 atleti Special Olympics, che sono atleti con disabilità, adulti e bambini con disabilità intellettive. A giugno avrebbero dovuto disputare i giochi nazionali e sono felicissima, ormai sono legata a Special Olympics da un paio di anni, di aver legato il mio volto ad un'iniziativa lanciata da Procter & Gamble in collaborazione con Acqua e Sapone. Con te saremo più forti, che prevede una raccolta fondi da destinare alle palestre che accolgono e che permettono a questi atleti speciali di allenarsi, perché la cosa importante e che secondo me è fondamentale, e io ne ho fatto una mia filosofia di vita, non è tanto insegnare agli atleti, anche a questi atleti speciali, come vincere, che si può vincere, ma l'importante è insegnare loro a mettercela tutta, a guardare il lato positivo del risvolto agonistico, e quindi è bellissimo poter spendersi e poter lavorare anche con questi atleti che sono davvero speciali. Mi viene in mente un altro nome di atleta fenomenale, Bebe Vio, che ha accolto col suo solito travolgente sorriso lo slittamento anche della sua Paralimpiade giapponese. Ma Bebe Vio è fantastica, ricordo ancora la prima volta che sentì al telefono il papà Ruggero, che mi chiamò dicendo che sua figlia avrebbe voluto incontrarmi, e aveva 11 anni, Bebe era giovanissima e sognava di diventare come me, di vincere le Olimpiadi. E Bebe è diventata campionessa olimpica, ci siamo anche scontrate in pedana, due volte ha vinto lei, una volta io, e devo dire che la determinazione, l'impegno, quando hai quel fuoco dentro, quella voglia di arrivare, e alla fine ci arrivi. Bebe voleva vincere, diventare campionessa olimpica, e c'è diventata. Ed è veramente imbattibile, è una sorta di vessari nel suo campo, perché per batterla non è così semplice, è quasi invincibile, e io faccio il tipo per lei e le auguro ogni bene, perché ci vogliono tanti Bebe Vio per trascinare tutto il movimento olimpico e paralimpico. Grinta infinita quella di Bebe, così come la tua, Valentina, in pedana e anche fuori. Un tuo incoraggiamento allora per l'Italia che sta provando ad andare oltre la paura e i devastanti effetti della pandemia. Ma oggi ci troviamo a vivere un momento inatteso, delicato e complesso, che richiede la massima cooperazione di ognuno di noi di fronte ad un nemico che non conosciamo bene, perché solo uniti, solo insieme possiamo diventare forti e possiamo rialzarci il prima possibile e tornare alla vita di sempre. Il gioco di squadra funziona, noi italiani ci dividiamo su tutto, siamo divisi in tutto, ma quando si tratta di solidarietà scatta il nostro grande cuore, che ci permette di compiere imprese direi impossibili. Ce la stiamo mettendo davvero tutta, è un momento davvero particolare e difficile. Io sono vicina a tutte le persone che in un modo o nell'altro danno il loro contributo per riuscire a superare questo momento. Valentina Vezzali, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Un abbraccio a tutti voi, virtuale, e a presto. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.